capito, dove c'è la biforcazione? Su in alto, rimane molto in alto, si sale anche da via Prati. Ho capito dove stai dicendo, però non ci ho fatto mai caso. Ti piace un po' di mani? A voglia che sono grandi, però sai, quando non ci butti l'occhio. Dice, vedi, prima di arrivare, perché non ce lo diventare la forza. E la salita a casa mia. E verso la zona nuova, diciamo. Su, prima della biforcazione. San Francesco Filighetto, lui è Filighetto. All'inizio. Sì, quindi dopo diciamo tutta la zona nuova che hanno fatto, Natali. Sì, ho capito dove è adesso, però non ci ho mai fatto caso. Sì, quando era in Simmati era mai da lì, si va da su, ma lui di da lì si mette l'antenna di attacco. Vabbè, fatti bene. O viene a piazzare il muro una casa, così. 248 248 ma quella signora di Andorra è questa, la signora di lì è quella, la signora di lì è quella, la signora di lì è quella, la signora di lì è quella, la signora di lì è quella, la signora di lì è quella, la signora di lì è quella, la signora di lì è quella, la No, questa è pronta per il sole, ma non lo sperate, tutto va per lo schema per il baracchino, perché devi fare delle... lasciati dei calzetti, e adesso non mi ricordo neanche più dove si aggiungono, la verità, non ne sono completamente dimenticato. Mi sembra, allora c'è la lira, sembra di 30-40.000 lire, non di più. Sono 25 euro, 30 euro adesso, una cosa del genere. Ecco, non mandarlo a casa a fare, perché se no vogliono 25 euro per farlo. Allora vediamo che sarà chiesa subito. Il telefono gli era dai. Ma la sua scheda è quello, il bello, non la diretta. Sarebbe la sera che la tipicità puoi fare al di là, no? Magari ce l'avrà anche. No, dirò io, allora, di la mattina al massimo. Cambia, cambia. Tutto sì, tutto sì. scappa. Vabbè, adesso la proviamo di nuovo. Però lo sai da fare, cioè, quella lì me la vedo. E ci metto quella che mi ha suo padre. prendiamo la Formula 1, no? Cioè, a me piace stare in casa, non è che... A me dal mare non mi interessa, capito? E io se vado al mare mi piace stare agli scogli, un giro con la muta, due pastelle. A me piace così al mare, no? Tutta la lì, strafinato, questo di fa, nell'asciugamano, nella spiaggia, capito? C'era questo caldo stesso, però al mare si stava bene perché c'era quel venticello, però guarda, una cosa allucinante, da mezzogiorno fino alle 4 c'era un caldo da morire. No, ma io non ce la faccio, io appena esco dall'acqua, no, mi asciugo con l'asciugamano. E poi mi porto lo struffino con l'acqua dolce, me ne devo costruire da usare. Perché poi quando ti metti la magliettina ti fisica, capito, l'ombra di fastidio. Io se non ti fai la doccia come fai? Devo lasciarti di là addosso prima, voglio fastidio. No, però se arrivato a casa una bella doccia, ma ti ho pigliato un giorno dei 3 minuti, figurati. Adesso stavo mai. L'hai condizionato da acceso quasi tutta la notte. Non sapevo dove stare, ma se mettermi sotto il condizionatore, nel letto, meno un caso, vado una cosa allucinata. Ma già non mi butti più a me. Anche là, mia moglie si prende la patonchi. Appena ce l'ha, solo figlia della macchina, vai al mare, non ti piace piarsi, a tiro più bene. No, negativo, se la sta prendendo. E beh, vabbè, un pochino io, là, per abituarlo un po' alla macchina, ma io ce l'avevo già fatta guidare, sa già guidare. L'unica cosa che non sa fare è la retromarcia. Non posso girare il volante al contrario, lo lascia girato come è fermo. Si vede un muro, si cuida un muro, però non si inverte. Già lo so, ma pure la sai cos'è che io la uso il freno, il freno a mano non ce l'ha tra i due sedili, ma ce l'ha a sinistra, capito? E quindi come fai a tirare il freno a mano se per caso si può andare ovunque? No, ma io già ne ho un'altra di macchina, c'ho la Rover 200 anche a casa, però quella lì è ferma 3 anni, l'ho lasciato per lì. Quella andiamo a bene a tirare il freno a mano, c'era al centro i piedini, però questa qua no. E già non so, infatti il retromarcia se la fa la scuola guida, con me fanno le marce davanti, no, la marcia avanti già va bene, capito? Io la porto qua, magari la sera mi faccio le 8:30, così che non c'è traffico. Le faccio fare gli incroci, la faccio fermare, scalare, capito? Mettere freccia, puntare, tutta questa roba qua, là. In modo che quando faccio la guida, che fa le guide, è già un po' preparata. Sì, perché anche cioè, la multipla è anche più larga delle altre macchine, capito? Cioè, corta come le altre 420, però è molto più larga delle vetture normali. Ma non si rompe le palle ci sono in giro, no? Qui a lui è che, mamma mia, non vedo l'ora che arrivano le 4:30 da mille. Poi non esco neanche mai, così, rompe le palle alla gente, tanto. c'era sotto qualche cervello di gallina. Sì, sì, mi stai dicendo che lo faccio io, là qua, figurati cosa è. Sì, ma è tutto sottinteso, già ti ho capito. Tanto qui l'orologio segna a 33 gradi da voi. Allora così in più dai su sei pedo di Andina e là. Thanks, guys. Bravo, è una bravissima persona, guarda, Salvatore è veramente in gamba. Thank you. hai preso per il culo davanti a tutti gli amici tuoi, anche è un po' più brutto, mamma mia, a me mi fa girare troppo le scatole, va. Poi ho il tuo carattere, io scatto subito, perché io non ci scherzo così, capito? Io scatto subito, a me non me la puoi dire, quello che succede, succede dopo. Magari lui, cosa ne so, lui magari già lo sa, c'è il problema che ha, quindi tu, può darsi che non si è tirato anche per quello. Infatti ci abbiamo lati, addirittura mi sembra non li parli più, figura. Ed erano amici per la pelle. E mi ha fatto bene. Mi ha fatto bene il Salvatore a... Oh, mi ha fatto bene. Alla fine non lo so cosa ha fatto bene, anche a 1-1 da voi ragazzi, ma che già lo sai, c'è la gente da Giulia, a 1-1 l'avrei trovato e non si è visto, non l'avrei fatto più. Beh, è rotto. E ci avete... Parra agricola, ci sei, capa!